Ed eccoci ancora a Absolute Beginners. Benvenuto Sasà e benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, ciao Babe. Come va? Una giornata di sole, parliamo di una musica estremamente solare anche oggi. Infatti stavo proprio pensando questo, qui a Berlino oggi, primo weekend di ottobre, splendido sole e noi proprio per celebrare questa cosa suoniamo qualcosa che viene da un paese con poca luce, giusto? Beh, la Finlandia d'inverno mi sa che sia piuttosto buia, eppure ci siamo affezionati perché stranamente, non che abbia prodotto chissà quante famose release, la Finlandia è già la seconda volta che viene trasmessa nelle nostre frequenze. Sì, non solo, è l'unica volta, cioè l'unica volta che abbiamo parlato di un gruppo che non sia stato o inglese o americano, è stato un gruppo finlandese, avevamo parlato delle Olympia Splendidi che però sono contemporanee. Ora parliamo di... Panasonic o Panasonic, ok, si chiamavano Panasonic, poi ovviamente la Panasonic gli fece causa, dovettero togliere una lettera e tolsero una A in mezzo, Panasonic. E poi leggenda vuole che proprio qua a Berlino nel 94, in occasione di una delle loro prime esibizioni, in un locale direi tipicamente berlinese, che usava come luce di scena, diciamo, delle vecchie insegne commerciali prese chissà dove. Loro videro questa insegna di qualche negozio, immagino, della Panasonic che lampeggiava in maniera intermittente perché probabilmente il sistema di illuminazione era pure difettoso e la scelsero come nome, in maniera quasi casuale. Esatto, e beh, rispetto all'Olimpia Splendid di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, non solo cambia gli anni, ma cambia parecchio anche la musica e direi sentiamo perché. Panasonic sono un trio fondato nel 93, 1993 in Finlandia, dicevamo, da Mika Vainio, da Ilpo Väisänen, che era un organizzatore di festival rave, ma era anche parte di un collettivo artistico chiamato Ultra 3 Sin O, un collettivo che si dedicava all'espressione della musica generata in maniera casuale. Facevano performance, installazioni sonore, era un trio dove vestivano veramente i microfoni, si applicavano i microfoni, captavano i movimenti, le pulsazioni del cuore, i movimenti del corpo, quelli che si chiamano artefatti, come si fa nel elettrocardiogramma, e poi venivano amplificati da un quarto componente che si chiamava Jari Lehtinen, che produceva e avrebbe poi prodotto molta strumentazione, in questo caso analogica, quindi per i Panasonic stessi. Produceva amplificatori, microfoni modificati e strumentazioni ad hoc. Mika Vainio stesso, nelle sue interviste, dice che usava delle apparecchiature molto particolari che a volte gli hanno pure creato problemi in aeroporti. Sì, credevano fossero delle bombe. Infatti la musica dei Pansonic o Panasonic, alterneremo questi due nomi, è sempre prodotta da macchinari, tant'è che Mika Vainio, tu hai nominato i nomi di questi tre artisti, ma forse Mika Vainio è la mente principale dietro il concetto Panasonic. Era un ragazzo che non sapeva né leggere musica né suonare particolarmente nessuno strumento tradizionale, quindi è un musicista, ma anche la parola artista si può applicare a questi ragazzi finlandesi, anche per il motivo principale che hai detto, forse prima ancora di produrre musica c'era arte sonora come concetto dietro quello che questi ragazzi producevano. possiamo dire che la techno era arrivata anche in Finlandia? No, detto così è un po' sminuire quello che poteva essere la Finlandia, che d'altronde è due passi da qua, ma diciamo che nel 93 la techno era veramente diventata uno dei linguaggi più diffusi al mondo, dei nuovi linguaggi musicali perlomeno. Era più o meno ovunque, ma mi sa che i Pansonic la adottarono come un linguaggio concettuale, quindi techno c'è sicuramente la ritmica ossessiva e questa ossessione per la tecnologia, per queste macchine che poi in realtà non erano certo macchine all'avanguardia, era già possibile usare i computer per fare musica, ma questi suoni che sentite sono tutti fatti con macchine addirittura autocostruite o comunque sintetizzatori analogici, generatori di rumore, i quali richiedevano ore e ore di pratica e di ricerca per ottenere questi suoni, metterli in sequenza, montarli, cose che venivano fatte anche dal vivo e cosa che non penso venisse apprezzata in questi primi anni 90 se non al di fuori di certe cerchie, tipo qua a Berlino, a Bologna, venivano a suonare al Link, che era uno spazio sociale molto grande che faceva musica d'avanguardia. Insomma, non erano techno per tutti i giorni. No, hai detto Babe che già forse si poteva fare musica con i computer, ma la musica non girava sull'internet ed è No. per questo motivo che Mika Vainio siamo documentati un pochino, i suoi genitori si preoccupavano di dove fosse dopo scuola, non lo vedevano tornare a casa, lui semplicemente passava i pomeriggi nella biblioteca a leggere il Melody Maker o a sentire i CD che la biblioteca acquistava, e in questo modo iniziò ad ascoltare musica e forse tramite le pagine del Melody Maker per la prima volta lesse la parola techno o si interessò a un nuovo tipo di musica e di concezione stessa della musica. Siete su Absolute Beginners, stiamo ascoltando i Panasonic, gruppo finlandese che poi ebbe un buon successo di critica, beh, quasi dall'inizio, e anche di, a livello discografico, perché questo disco, che è il loro primo LP, esce su Blast First, che era la stessa etichetta che distribuiva negli anni 80 i Sonic Youth qua in Europa, ed era una sussidiaria della Mute Records, e penso che vennero contattati quasi per caso, o comunque perché qualcuno della Mute o della Blast First li ascoltò in una delle loro prime esibizioni in quelle di Londra. E a quel punto i Panasonic cominciarono veramente a girare tutto il mondo, sebbene immagino che, e poi da come loro stessi raccontano, non venissero ben accolti ovunque. Soprattutto all'inizio, comunque dal 93 al 2009 il gruppo ha suonato penso in tutti i continenti e ha prodotto diversi album sia sotto appunto il nome Panasonic, ma Mika Vainio poi ha prodotto da solo sotto diversi nomi, però spesso con la Blast First Record, come hai detto. Quello che stiamo ascoltando ora è il loro primo album, come spesso ci capita qui ad Absolute Beginners, del 95, e si chiama Vacchio. E, ne stavamo parlando adesso, Babbe, mentre ascoltavamo, questo primo album ricorda tanto i Throbbing Crystal. Sì, non è solo techno, c'è molta musica industriale, quella primigenia, della prima ondata, quella inglese, e effettivamente anche in quella prima ondata di industrial, per necessità, gli strumenti erano completamente autocostruiti o quasi. Sì, e poi il nome verrà accostato anche a gruppi come Einsturzend e Neubauten e Suicide. Suicide poi addirittura Mika Vainio suonerà insieme ad Alan Vega, questo un po' per dire che tipo di personalità questa musica aveva colpito. Anche Brian Eno si interessò tanto a questi ragazzi, quindi il successo grosso, come tutti i gruppi di cui parliamo qui ad Absolute Beginner, forse nemmeno i Panasonic l'hanno raggiunto, ma un certo status riconosciuto di artista è stato acquisito. Di critica sì, ma di pubblico no. Di pubblico e soprattutto penso di successo commerciale di sicuro no. Un altro parallelo che mi viene da fare con questi Pan Sonic, ed è una cosa molto bella e tipica della musica underground tutta, è con i Throbbing Gristle ancora, che a loro volta uscivano da un collettivo artistico che si chiamava Coum in Inghilterra negli anni 70, metà anni 70, e anche i Pan Sonic comunque erano legati a un collettivo artistico, diciamo, d'avanguardia o comunque sperimentale. E magari a loro volta erano influenzati da collettivi artistici d'avanguardia, l'avanguardia tipica del Novecento, da Duchamp in avanti, che viene citato in qualche intervista da Mika Vainio, che parla espressamente del fatto che non voleva limitarsi ad ascoltare altra musica, ma perché era quasi preoccupato di poter copiare implicitamente i musicisti che più gli piacevano. No, voleva essere ispirato da altre forme artistiche tipicamente visive. Visive, infatti le parole avanguardia e sperimentalismo si adattano benissimo alla musica che stiamo ascoltando. Volevo parlare un attimo di dire ai nostri ascoltatori che Mika Vainio era una persona, dico era perché purtroppo scomparse nel 2017, un paio di anni fa, in circostanze tuttora un pochino misteriose, comunque conseguenze della sua battaglia o forse abbandono all'alcol e all'alcolismo che condizionò un po' tutta la sua vita, soprattutto le sue relazioni familiari e di amicizia. Sorprendentemente però riuscì a produrre e registrare tantissima musica in una maniera molto metodica, si dice che passava lui 8 ore al giorno, prendeva il suo impegno proprio come un lavoro e quindi 8 ore al giorno lui le passava alla ricerca del suono perfetto e appunto a trovare quel suono interessante che lui riconosceva come diverso da qualsiasi altra cosa. Grazie. Mica Vaigno, oltre a limitarsi dal punto di vista delle arti di cui traeva ispirazione, si limitava anche all'utilizzo di macchine analogiche o macchine autocostruite, perché diceva che diventava troppo facile produrre musica con il digitale o comunque col computer. Preferiva avere un frame, qualcosa che lo limitasse. E anche tutta la sua autodisciplina che aveva era un modo per darsi un frame concettuale nella musica che doveva produrre e per darsi una spinta, uno sforzo, sforzarsi di produrre, di ingegnare qualcosa di nuovo. E in effetti la musica di Pansonic era ed è originale tuttora. Assolutamente, poi questa quadratura forse può anche ricondursi a una certa struttura mentale, forse più tipica dei paesi del nord piuttosto quella che conosciamo noi. Però siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che possono trovare il link alla puntata e al download del podcast su www.neverbeginners.altervista.org, giusto Vabbè? Giusto, giusto, oppure magari se guardate su Facebook cercate ignoranza radiofonica, qualcosa vi esce. Esatto, trovate il link al blog e alla puntata. E l'album non è finito, consigliamo ovviamente, come spesso ci capita quando non riusciamo a riprodurre l'intero album, la fine, consigliamo la fine dell'ascolto ai nostri ascoltatori. Trovate ultimamente, non dovete andare in biblioteca come faceva Vainio a sentirvi l'album, ma potete trovarlo sulle vostre piattaforme online. E, beh, salutiamo tutti quanti. Buon proseguimento, qualsiasi cosa siete in procinto di fare e a risentirci. Alla prossima!